il cornicione cos'è? È una parolaccia, scusa. No, ovviamente mai che l'ha rigato questo ragazzo. Siamo proprio dentro di cornicione. E tanto Massimiliano, non di cornicione, di raganara. Dai, 7 kg lui, io li ho buttato giù. 7 kg, però sto mollato sigaretta, sto correndo e va bene così. No? Ci sentiamo le prossime, no? Passo in quel rix. Scappa, riprendo io, ciao. Massimiliano, buona carica batteria, ci sentiamo alle prossime, buon 144 e buon trabacco per domani mattina, avanti Claudio. Ecco, vai di lì, c'è delle mutande, e ora va delle cornicioni quando dico. Non ha giù fiaco di fa, mamma. E tu dove tu? Tutto mi sono a te, dove sei di martellelle della voce delle balle. Oh, quando sono con gli esami? A maggio? Si conferma. Giorno? Dal 18 in poi. La documentazione quando vai a comandare? Quanti mesi prima? Un mese prima, va bene. Andiamo a vedere. Ciao ragazzi, ciao, a dopo. Ciao, ciao, ciao. Beh, anch'io vado a mangiare, eh. Non è duro, ci sentiamo dopo, se ci siete, ovviamente è procimine. Buonasera a todos. Ciao, Claudio. Io sto già mangiando. Ciao, Sandro. Ci sentiamo presto. Vuoi che sentire domani mattina? Ciao, Luca. Fai bravo. Ciao, ciao a tutti. Buona cena. Io ci vado a mangiare, ci vado a fare la cena. No, dai. A dopo, signori. Ciao, ciao. Ciao, microfono. Roba che lui era un CD vecchio e la lunghezza del cavo, se è giusta, se vuole più corto, se vuole più lungo, e poi la colazione dell'antenna. Come devi vedere un po' la temperatura dell'antenna? Allora, la volta scorsa, quando abbiamo piazzato la prima volta, di stazionare siamo riusciti a scenderlo anche a 1,5. Adesso siamo scesi per piazzare l'amplificatore a 100 watt e le stazionare male portano. No, senza, anche con l'amplificatore per esempio. Se tu attacchi l'amplificatore non è che salgono. No, però prima l'abbiamo provato anche senza amplificatore e le stazionarie erano sempre a fallo. Non siamo mai riusciti a farle scendere. Tipo di antenna? Di quelli a filo lungo da 80. Lo stilo regolabile? No, di quelle in acciaio flessibile. Acciaio flessibile. Sicuramente, ma sì, nel caso. Claudio, non lo so, Daniele, no, Daniele no, forse è Claudio, non lo so, o Massimiliano. Della batteria. Allora di lì non hai problemi, perché quello è il piano di massa di tutte le macchine. Quindi mi stai dicendo di fare dritta l'antenna, a scendere giù con un capo fine fino a arrivare al telaio. Esatto, la zampa del motore, un occhiello, lo avviti praticamente dopo avvitata la freccia di massa che va poi a collegare al negativo della batteria. È proprio dove c'è il bullone, dove parte la freccia di massa. Perfetto. E come il diametro di capo, da quant'è che lo posso usare? Ah, da, anche da uno lo puoi usare, uno e mezzo, non c'è problema. Un capo qua, ti prendi un giallo verde di quelli elettrici, un pochino grosso, le metti due occhielli, uno lo porti all'antenna, al piano di massa dell'antenna, dove è attaccato l'antenna, e l'altro lo attacchi alla zampa del motore, e poi provi, vedi un po'. Ok, perfetto. Faccio come migliora un po' il tempo, provo a fare come si dice. Così torniamo a vedere come scendono queste. Si migliora qualcosa? Beh, sicuramente dovrebbe migliorare, sicuramente. Ok, grazie per averci. Figurati, non c'è problema. Sono qua, Maria, che sto cambiando la posizione delle radio, non mi piace. 7.4 lo sto mettendo in fondo, perché sennò poi non ci posso permettere quella che vorrei fare. Io sono qua comunque, lo prendete. Ci viaggia con la patente del libretto. cosa si stava spiegando parte. La patente l'ha presa, con la frequenza AM, non FM. Ma cosa c'è? La patente universale, quindi già qualsiasi tipo di emissione, AM, FM, SSB, CW, Packet, RTTY, tutto. Allora, mi stava spiegando, quando lui ci ha preso la patente negli anni suoi, la patente ce l'ha presa con la frequenza AM, quindi la FM mi ha spiegato che ancora non c'era. E questo? Vabbè. Ma va a cambiare. No, salvo. Ma va a cambiare, che mi piacere. Guarda, non c'era molto prima di me. Ce l'avrà 3-4 anni, quindi... Non perché si è preso la patente solo in me. C'è 3 anni più di me, come fa qui? Non lo so, vabbè. Già ci sono 24 ore, questa è tanta, non posso più. Ma se mi trasferiamo un po' di roba, se no mi viene il nuovo che fai, ma qua, mi prende un carriere. si va? Non so, a 5 allora, io abbasso 5 watt. Sì, a voi, intanto qui il camper sto in linea della 100. Poi salutare la terra, ma c'è quella baracchino che fine fa. Sintome? Perché cosa succede? Allora, ripeto, se tu hai qui il camper, glielo tu così, tu sei più... In giro di due parole glielo fai capire cosa fa e danno fa. In che senso? Allora lui ha praticamente attaccato tre ritrazionali, spiegagli un po' cosa gli fa. Buonasera, buonasera, cosa vuoi fare? Mi studio la radio, cosa vuoi fare? Luce finale. Quale stazionale ha? Beh, la stazionale è il massimo di copertura, sono 1,5 messi. 10 milioni di euro. Ma siamo ben attenta. mi sento a corretto di alimentazione, la radio va venuta completa, quindi quando tu l'hai comprata, o chi l'ha comprata prima di te, allora assicurarsi di farsi dare il microfono, perché quello fa parte della radio, lasciando perdere tutti i microfoni optional, che siano 60, 50, 80, 85 e così via, quella è tutta roba optional, però il microfono in dotazione, quello piccolo, lo devono dare quando vendono la radio, siamo una fottitura così, capito? Capito? meglio. Oh, poi ti do questa anche, Tommy. Cos'è quella? 740. GHM10 ma qua come è? Daniele, Danilo. Ho sbagliato. Ok. Hai capito, claro, ma sei pesavoso. C'era qualcosa più che mi stava solo le scatole. Anche perché con il buon pazzesco sono tutto insuccato, anche se c'è l'ombrello qua, la cosa che ha fatto questa scala, si mantiene l'acqua, il visto lo scalzo è tutto induffato dalla madosa di non credere. Hai capito come c'è la vostra. Quindi Crapoli, come si chiama, non ne vale la pena a comprarlo per il trasferito di voi, io ho fatto un giro di discorsini. Hai capito, può fare il preaccordo, se sbagli facendo, succede un macello, poi se me lo fa alzare uscire con 20 watt, certo, sarebbe stato bello a esporla con tutto, come si chiama, perché se avevo beccato uno di questi cosi, di questi ricevitori, i radio sul booster erano già venduti, quindi non me ne frega nulla, e a me va bene questo così come adesso, no, e non ci metto altro, non mi cacco adesso che faccio un bel, come si chiama, un contenitore per quello che parlate, fatto bene, hai capito, e ce lo fico dentro, ce lo fico e quindi è piazzato, hai capito, perché non c'è peccato questa roba, certo, no? Le valvole non è colpa tua, perché dopo tanti anni tendono ad esaurirsi, e io ho avuto l'esperienza sul Constant, come è successo, e capito, però ogni giorno bisogna accenderlo, anche per tenere i condensatori di sollecitazione. Certo, bisogna tenerle sempre efficienti le valvole, perché altrimenti poi è un casino, no? Non riesci a metterla a posto, tutto lì. Vabbè. Comunque già va bene, funziona perfettamente. Sì, quello lo so, ma se lo senti adesso come l'ho fatto, prima che quando lo facevo andavano, l'ho messo a mano, claro. Va alla grande. Pensare che valvole ce n'erano uno scatolone, claro. Uno scatolone il giorno che avrei tirato Claudio Piccolo in garage, me li ha buttati in terra, poi vari tutti i tipi, bravati da Cal Verde, e alcune, meno male che le avevo messe dentro una scatola che le avevo sempre la vetrina, le più, perché andavano bene al Constant, infatti qui c'ha delle valvole, la 6 a 6 che la monta il Constant, la 12 a T7 che la monta il Constant, capite, alcune, e queste qui ci avevo qualche cosa in quella vetrina, però uno scatolone ce l'avevo buttato, non mi ha mettato lo scatolone, l'ha buttato pigliato, ce l'ha, però con la quei cassonetti con l'uomo che ho buttato tutto quanto dentro, male qualcuno era buona, però se è trovato altro è chiaro, proseguo, hai capito, mi ho lasciato, hai capito, queste pigliate le ha buttate a te, quelle in metallo, date, te le avevo del vicino. Quello in metallo, sì, ce l'ho io. Ma io non le ho mai cambiato le valvole alle linee che ho io, assolutamente. Vanno sempre bene. Vanno sempre bene. Quello magari lo puoi già vedere. E quindi ti abbasso la ricezione, capito? Ricevitore. Vabbè già, io mi sto addormentando, dai. Ti saluto, domani vai a fare il prezzo, sono già 11:15. Una sistemata per me ne vado a letto. Vi saluto tutti, ovviamente, e ci sentiamo alle prossime. Saluti a casa, Gianni. Ciao a tutti, buonanotte. E grazie Claudio, allora buonanotte, buon tutto per domani. Saluta anche il quartiere familiare, io anche lo so molto, più sarò così adesso qui, perché il televisore non è che lo guardo spesso e niente. E ci sentiamo domani, magari se. Ok, non so se Luca c'è, saluto anche Luca e tutti gli amici in ascolto su 10, anch'io faccio il QRTSK, buonanotte a tutti. Ciao già, qui sei. Ma se tu ti affatti come quei cosi, come i vampiri, esci, come andati? Fino adesso ho acceso, in questo momento sono andato al computer, ero al computer e ho acceso adesso, in questo momento ho sentito che te ne sapevi andare. Possiamo anche chiacchierare, tanto la 50 ancora alla TV, no, ma sono quello che male è male, come era sicuro? C'era Claudio, c'era, hai capito, così un attimo un ping pong di battute. E poi c'era Luca, ma Luca ogni tanto c'era sempre, e Danilo c'era, hai capito, che ha chiuso e niente, io sto sempre usando l'Inuiti C1294 che qui in postazione, ma domani sei casa quel coso che c'ha ancora a canali, stava funzionare il Midland che qui sotto, proprio c'è la stessa connessione del microfono e qui sotto, e poi qualche giorno ce l'ho messo da non imballato per costruito nel garage, hai capito, e niente, cioè, è troppo casino c'è qui. Tu mi hai detto che vi parlo qui di un apparato, ma non ti sei fatto sentire. Di che avevo parlato? Ieri mi ha detto, ne parliamo, non so che cosa, però non ti sei fatto sentire, non mi hai voluto dire cosa era. È andato via Claudio l'apparato, non ce l'ho più, però c'è entrato a tipo e il signor Santo l'ho dato a Claudio già. No, io stavo parlando di ieri sera, tu mi hai detto ci sentiamo dopo, che ti devo dire una cosa, parliamo dell'SNOV, non so che cosa, non ti ho capito. Perché ne avevo paura, sotto mano che lo stavano vendendo. Di che cosa? E anche un Gala li stavano vendendo già, e vuoi un SNOV, però a me non mi interessa. Ma chi è che lo sta vendendo il Gala? Un tipo un internet, un tipo, lo stava prendendo per 200 euro, hai capito? Era nuovo. Vai e guardati, se sei un po' furbo, guardati la frequenza, guardati il canale, guardati in che sintonia è. In AM praticamente un canale spostato di tre frequenze. Allora, lei, cioè, quando già la roba è lì, o parli con gente seria, come quando ho combattuto il servitore io, che era una persona abbastanza seria, però anche il bidonato se ne prende, cioè lui c'è ancora l'apparecchio di vedere, hai capito, volevi vedere in persona, io sono andato, si è 80, funzionava alla grande, e sono contento che ce l'abbia Claudio, hai capito, cioè, sono andato a Claudio perché Claudio ci tiene, io ce l'avevo, lo chiamiamo già per non dire, non l'ho comprato più quattro per l'ascolto, comunque già ci avessero rifatto subito, stasera ho comprato un 140. Che perché aveva una cosa, Gian Maria, che vuole riparare i finali, hai capito? Giusto per fare la scuola, perché per la guarda non mi interessa più il là, lo metto a posto, se ne usa, però no, mi fanno sempre più baracchini, capito? Perché c'è sempre il quinzimetro, hai capito? E così vado subito. Capito, non fare ascolto, già che non ho neanche Puglia di stare più facendo ascolto in base alle camicie, ho altre cose per la testa, hai capito? Però non lo devo avere, non è che mi ho sentito con il volante, ho detto adesso già ce l'ho invece Vittoria, però già quello lì c'è il frequentimetro, l'altro è una roba da museo che ho. Ma questo che succede è? Questo che cos'è? Sto usando gli inuiti perché non va bene. È fortissimo la radio, va molto bene, non bene. Questo è un baraghini così. No, questo è il mio, questo è l'inuiti mio. Quello che mi ha regalato Angelo ce l'ho in garage, non so quale. La condizione alle scritte già, perché quello lì già è tutto cromato, qualcuno si è messo a pulirlo e aveva fatto le scritte, però è tutto cromato e non c'ha la cromare le cromature, sono delle apparecchie dopo, è tutto cromato, lì bisogna tenere un frontalino o le buscovato, è tutto cromato l'apparecchio, non lo, fatto, cioè il medico usciva già da sostenere anche col microfono suo, perché questo c'era un peso, il baracchino preciso, questo non è quello però. Quella di Giovanni, la moglie di Giovanni, usciva e c'era per anche il mio scheletro, non so se è mai modulato. E c'aveva sia questo e sia il Sommercamp come quello che c'è io qui. E modulava pure in noi che arrivava insomma una cosa da potentissima. E mi è sempre piaciuto, poi questo lo sai che me l'ha venduto già, questo è nuovo, era nuovo nuovo, Gianni Capricorno questo me l'ha venduto. Capricorno, sì, me lo ricordo. Claudio, l'hai visto quel Galaxy che c'è su B? Ma sì, ho già tutto quello che frequenta, si vede. Io ho avuto l'occhio, ho guardato la frequenza del canale, poi l'ho ingrandito ed era puntato in AM, e quindi ho detto che sono più fuori frequenza di brutto. Sarebbe stato più intelligente se non avrebbe acceso. Base, perché io ho 780 e così fa la linea con quello, c'ho quello in uno, adesso c'ho 50 anche il TS 700 oppure il Pangonato MC 60. Adesso vediamo se c'è qualcuno. Solo la scuola. anche una cosa, che in realtà se si pagano fisse su certe cose, anche se non c'è il guadagno. Io ho sentito molti negozianti lamentarsi di questo, dice io noi paghiamo la tassa fissa, anche se non li guadagniamo, questo di però fissa la devi pagare, tutti gli anni è la stessa cifra. Ma quello del limite, certo, anche se io già non lavoro, l'impice lo devo pagare, a meno che non mi cancelli, però adesso questo il fumo già non lo posso fare, perché sono quanto se questa roba sta saltando lo vedete come dice Ottavio, ce l'ho butto via e non posso io già rovinarmi la vita, perché se sono corso ora non posso essere nell'altra. E capito, poi non c'è niente in giro perché bruciamo il prezzo, io ci avevo dei viaggi lì a Corte la Penta, hai capito? Ed è capitato il sabato che io ci avevo il coso impegnato con lo scuolabus e lui da solo, non avevo cartelle a bordo per andarci, non è compro, che costano come si chiama, lo dato un altro, beh, a un prezzo accettabile ha fatto, lo sai che farà bruciato il prezzo? Così. Invece mandavi Ottavio che gli facevi fare il viaggio, tu facevi dato agli altri e poi magari ti bruciava il mercato, ti abbassano la frezza su quello che gli hai fatto tu e ti frega. Ah, come si chiama? Una volta portato in comio di coro, di sana, di come si chiama il viaggio, siamo molto amici, qualche volta Angelo, e ha fatto il prezzo, un prezzo che sta benissimo già, ma è andato, mi ha detto, tutto guarda, per un prezzo molto inferiore a quello che è stato fatto, era già da fame il prezzo che ha fatto questo, e quello lì ha passato, ma lo sai perché già? Perché già gli autisti sarà tipo se messi in mente, lui ci butta il gasolio dentro e poi quello che ne esce, capito? Perché fuma ne ha tantissimo, il giorno del Papa ce ne aveva una marea, quindi capito come sono le cose, riprendi classe, lo riprende. Capito già, io non mi volevo, l'ho fatto perché è convinto questa cosa, perché ci avevo le licenze, come si chiama, per Fulman Grande, ci avevo e l'ho fatto per lavorare mio figlio, però già è una cosa assurda, che ci ho ferma e niente, non va bene, non so come uscire da questa cosa. Lo so, a quel Fulman io l'avrei fatto andare. Perché lasciarlo fermo, cavolo, è una spesa inutile secondo me, ma bisogna farlo andare se ce l'hai. Già me sto lavorando qui, hai capito? E niente, non mi posso spostare io questa roba. Non si fida di Ottavio. Fide, speriamo. Io l'ho capito. So che però diciamo io non me lo tengo perché ci mettiamo sacco e sale già qui. Ho detto, devi avere più fiducia al tuo figlio, devi dargli il pullman, fargli fare le gite, tuo figlio adesso lo sta lavorando. E intanto che lo sta lavorando gli fai fare questi lavori qua, si fa i viaggi, si fa le gite, quello che ci sono le cose da fare. E almeno entrano i soldi. Ma non c'è niente in giro, già hai capito? Non c'è niente, proprio niente di niente. Come fai? Non c'è mercato, non c'è, hai capito, la gente con la crisi sta bruciando i prezzi, hai capito, e questi piccoli imprenditori già non campano, e ripeto, mio amico è fortunato lì perché lui c'ha quelle linee a Sentino, l'estate, ho capito che la moglie c'è il posto di lavoro. Però di altro già, in inverno anche lui viaggia poco e sta parlando di Angelo. Già lo so, ma c'è anche il servizio taxi, coso, già ci stanno da fare, ma bisogna girare per le scuole, cercare appalti, se uno non si muove non trova. Ok, lo c'è una, ma stanno più facendo gite già, prima ogni anno facevano 10-12 gite durante la scuola, da quando c'è il culo poi stanno più facendo, hai capito, perché andavano sia la scuola di qui, sia quella di Carleghe, a Torino, e niente, non hanno più fatto, e così già, diciamo, tra queste cose, no, Angelo, quei taxi non c'entra nulla già, non c'è uno e uno, non uno e l'altro, capito, resto non c'entra niente con Angelo. pensavo fosse tutta una ditta che fosse stata formata dal padre. Prima era così, poi ognuno quello come si chiama lui. Per esempio Alessandro lavora all'arte, capito? Quindi sono Angelo, cioè come si chiama, e Puma, le linee Sigue, capito, di Argentino, che ce l'ho fatto anche io nel 2009. E niente, e non solo c'è il tax, però viaggia, in realtà vorreste viaggi a Rocciamo, non è tornato. Sono quelli già i mesi redditizi per queste cose, tutto l'estate già. L'estate, ripeto, faccio le piscine, faccio qualche gita così con gli, appunto, gli anziani, quest'anno a Benicuzzi sono andato al Ghero, a Isola Rossa, hai capito? Però già non ho fatto molto, quella del Papa, vabbè, non ho fatto molta cosa già. Sei due paesini, c'è Sassa, c'è Nuoro, c'è Oristano, c'è... dove trovi i viaggi? Non è che ti puoi fermare su Carangè, Mulos e cosa. Anche a Sassa dice, ci sono molte scuole, vai, ti fai un giro, fai tracciati degli altri, cerchi di fare concorrenza, di modo che qualche cosa ti esca. Lo so, già, poi tu, ma non è che il mio sia un Pullman moderno, vabbè, io come meccanicamente va, capito, però diciamo con le vaccaglie mi si è rotto il compressore del clima, il cuscinetto, l'ho messo a posto, adesso bisogna ricaricare il tutto, un sacco di cose già, non lo so come va a finire. Ci stavo pensando di non posso rovinare, ecco, per dire che c'è il Puma, non è così, a me la ricetta l'avevamo fatta subito, perché ci avevo, ho fatto la scuola, io a Cagliari ho fatto un esame come un diploma, hai capito, solo, però diciamo già, le cose non ce la vuole, hai capito, se fosse stata da altri magari sarebbe incrementata l'azienda, non c'è nulla, lo devo capire anche lì, così mi è arrivato con una regione a vedere. Come si chiama l'attività guida, se sovra sempre lo stesso, come si chiama, che c'è un'attività, insomma, e non so, manco se ci spiegherò, siamo fino al 28, se non faccio pure anche il pullman, perché è fermo, io non posso incrementare a comprare una rimessa, a mettercelo, perché una, come faccio io se non ci guadagno, l'ho preso così, pensando che andava, ma no, ce ne sono troppi punti in giro, troppi questi, tu non ne ho idea, perché mai io lo so, ho visto il giorno che è venuto il Papa, guarda, dalle zone mie sono scesi gente che non avevo mai visto, che ne aveva due, Puma che ne aveva tre, che ne aveva uno, quindi anche qui c'è già, per esempio anche a noi ci sono i Puma, cosa che io non sapevo, hai capito, io tanti piccoli allungando. Cosa già? Ho detto, la prossima volta ne hanno buttato tutto sulle luci. Ma come mai? Io li ho visti da volare. Hanno buttato tutto qua, una domenica sono andato così a farmi un giro, mettiamo le ruspe che le sta buttando tutto, la signora ha detto aspetti, ci sono dei documenti, signora, io non li posso, non posso farle prendere nulla, io ho l'ordine di distruggere il tutto. E dov'è questo? Al Lido, al Lido, lì. Il Lido qui non lo c'è più. No. Se non lì non ci siamo mai andati, ne avevamo la foto da Giovanni. Praticamente glielo conosci che è denominato signor G, ti ricordi? Sì, andavamo così come si chiama del supermarket, ti dirà qualcosa e poi la sera lì ho fatto il raffisso d'estate, anche ogni settimana andavamo più contenti e poi già facciamo un torresate di piazza, però adesso la gente si sta buttando alla fame che vuole andare a fare una serata di piazza per 50 euro, ma anche scherzando, succede un guasto, le casse, che ne ho due che a sede si sono bruciati Twitter, quando succedono queste cose già ti fai conto del carburante e la serata si è andata gratis, se queste cose poi anche lì già ormai ci vuole decidere presso l'impasto, ogni cosa va tassata, la buona non si fa più nulla, queste cose quindi. Non so se il gioco vale la candela già a un certo punto. Sì, ma ci sono tante sale che fanno liscio, che fanno prima il passo, fa liscio. Non c'è mai andato lì a suonare. Una volta c'è andato, una volta c'è va suonato. Però già, poi sì, noi siamo le cifiche, che quello mi porta a 20 persone a seguito, quello che ne porta a 30, quello qui, quello là. Mio figlio gli ha detto che era tolto, io adesso non mi porto a nessuno, se la gente viene, viene perché le fa piacere, molte volte già la pensavano come lui, perché lui suona per suonare e io suono per suonare, non ti porta a nessuno, hai capito? Devi essere tu che ti devi fare pubblicità al locale, perché uno per andare a suonare o al ristorante già mi devo portare gente a seguito per consumare, ma come è scritto, il musicista deve fare il musicista. Beh, i miei colleghi a Santa Teresa, la gente che conoscevano continentale cosa li portava in questo locale dove c'era musica, in cui c'era il ristorante, questo qui non li faceva pagare le cene che facevano i miei colleghi erano sempre gratis, la gente che li portava, quindi le portava le più la cena era bella grossa. Grazie. ci sono a mettere sempre in conto, non possono sempre andare bene, non tutte le camere escono gruppo. Grazie a Dio, però non so dove avrei avuto qualche studio all'affitto già. fortunato, hai avuto già la strada spianata su quel mattone, invece io ho dovuto sudare. Qui va in casa tua però. Sì, non è da adesso, c'è un bel po' di anni che è mia. Okay, ma devo avere riscatto per avviare. No, no, che riscatto. La mia è una casa cooperativa, non è popolare. Capito. E io già qui c'è un sacco di gente che all'epoca il comune, sto parlando di una ventina di anni fa, aveva fatto la lottizzazione della 167 con l'aria fabbricabile a un prezzo già, capito, abbordabilissimo, e tutti hanno comprato con sacrificio l'hanno fatta. Anche io già bene o male potevo, però non mi sono voluto mai mettere in questi impicci già, perché non lo so come ne sarei riuscito. E ancora certi l'hanno finita, ci sono dentro, ci sono dati da fare, perché uno quando sa usare la paletta e da fare certe cose, questi materiali in un attimo, hai capito, non paga il muratore, riesce, però uno proprio che non ne sa proprio niente di affare di muratore, di colla edilizia, capito, lì ci vogliono soldi. E alcuni ho visto che c'è lo scheletro, ogni tanto ci mettono un blocchetto, una, capito, io hai capito, non mi sono mai imbarcato già, perché ripeto, l'aria fabbricabile ha portato, hai capito, c'è certe molta gente anche che il bomba qui si a metà coso credo l'ha venduta perché non ce la faceva più. Lì l'ha presa mio nipote l'ha presa lì in quello spiazzo che c'è per la stanza di lì dopo la chiesa, sarebbe a casa tua. Chi è questo? Già io ho visto un nipote, non so dove c'è la chiesa, ma chi è questo? Mia nipote col marito l'hanno presa lì, praticamente c'è la chiesa, poi si scende verso destra giù, e c'è questo spiazzo dove sono tutte quelle villette, ce le presenta? Le villette stai dicendo? Eia. Chi è questa? E chi è? Mica ti faccio nome e cognome qua. Si chiama Vanessa, insegnante. Insegnante? Ma non insegna più adesso? È giovane, sono sposati 3 anni fa, mi pare. Quindi ne hanno? No, il cane, ma... Il cane, ma lui carabiniere era? No, lui è elettricista. Sai già che... Boh, non lo so. Vanessa, pure io, almeno mi nuovo. Capito, quindi vedono delle signore, però c'hanno figli che portano all'asilo, piccoli, piccolissimi. Ma le figli hanno figli non è volte. Praticamente è insegnante di sostegno a bambini handicappati, roba del genere. Però c'ha un appello per caso. Scappa, se non la camionetta sì. Me la conosco benissimo, e come no? Una brava donna, è veramente una brava ragazza. Prima abitava a Cargesia, confermi? No, prima abitava a Sassari. Questa abitava a Cargesia, c'è la foto. No, non abitava a Cargesia, abitava a Sassari, in via Oriana. Chi ce n'è una, c'è, ma tu la moto sei che non la vedi? No, no. Perché questa che c'è la foto, nel grigio c'è una bambina che si chiama Eliana, è una bambina piccola che portava all'asilo. Là non è lei, è una figlia. E vabbè, sicuramente la conoscerai, perché diciamo che lì già ci stanno poco, perché vorrà dormire a mangiare, perché uno insegna, l'altro lavora come elettricista, quindi ci sono poco a casa, capito? Saranno la domenica, se ci sono pure, perché sono giovane, vado in giro, vado nei locali, capito? Io non lo so, vicino alla chiesa, però già... Nelle villette io, hai capito, nelle villette, sono vicino al campo, stai dicendo. Sì, io non è che la conosco molto bene. Praticamente entrare in via la chiesa, poi sulla destra c'è quel discesore che porta a Sassari, ce l'è presente? Ok, già ho capito mia moglie chi è, già ho capito chi è, in occhiali lui è. Mi sa di sì. E mia moglie ha capito al volo chi è. Ho capito anche chi, il prodotto la, come detto, dal cane anche. Hai capito? Mia moglie ha già memorizzato, anche io ho memorizzato a lui e mi sono andato per la frutta e verdura che vicino alla radio, però non lo conoscevo questo signore. Io pensavo che tu ti riferivi alle, alle villette vicino al campo. Alla chiesa, ci ho detto c'è un disceso a trascendere e poi ci sono queste villette. Io sono andato un paio di volte, non molte volte, non sono grandi grandi come case, per due persone, però ce n'è basta, sono villette un po' in miniatura. Ok, quella zona nuova residenziale, ma mi è detto che conoscevi uno che era nell'Armari. No, non sono io che ti ho detto. Ok, no, perché un amico se la sta anche vendendo. Ok, no, niente, già io esco poco, diciamo, conosco queste signore che abitano lì, conosco che porto bambini all'asilo e poi nient'altro, niente, se non buongiorno, buongiorno, non ho avuto mai modo di scambiarci qua, e poi c'è uno che lavora da cosa, Sassari, da questo perito che fa le perizie alle macchine, Soggia, da Soggia lavora, Soggia è noto come perito, ormai ci sono i figli, lavora lì, infatti quando ha fatto il fumo l'ha venuto lui, e si alza, ha pitto al muro, si ha detto, e quindi più avanti non ne conosco altri, comunque. E gente, diciamo che rimane anche riservata perché non è che il paese esce più di tanto, sembra quel rione già, sembra Sassari, sembra. Beh, c'è una mentalità non paesana ma cittadina, capito? Solitamente scappano a Sassari come in un attimo di tempo, mollano la casa e partono. Specialmente mia nipote col marito vanno nei locali, vanno a ballare, sono giovani. Poi mia nipote si interessa anche di matrimoni, c'è un'agenzia, oltre che fare gli insegnanti, c'è questa agenzia che si occupa dei matrimoni, praticamente ti fa tutto dalla alla Z. Solitamente i due quando si devono sposare sono stressati e cose, lei ti fa tutto, fotografo, ricevimento, la chiesa, prende gli appuntamenti con l'obbrini, tutto grande. Sono già la conosco, non so perché. Perché una di queste aveva invitato Ottavio, aveva organizzato un matrimonio a Villa Longoro, l'ha chiamato Ottavio suo male, sicuramente è quella già, sicuramente è quella, capito? Non lo so adesso il nome che mi hai detto, però sicuramente sono quella che eravamo andati lì, e non prendevamo questa roba già, e allora ci hanno dato il mio faro nuovo, e l'avevamo andati a finire a passare, questa roba era per un sacco di culo, e poi lì già, non riuscivo dove il cellulare, era la notte, era una cosa. Niente, non è questa tipa qua, e sicuramente avevano fatto una serata di scusi da nuovi uschi. Ed è questa ragazza qui che ho organizzato, che mi sembra che quel decino tu. Non sono sicuro già, non sono sicuro, adesso ho già chiesto a Ottavio per come si chiamava. Ed ero sempre in contatto con Ottavio. E comunque c'è anche questa agenzia, organizza sfilate di moda, tutte queste cose qua, capito? Ha fatto delle sfilate di moda dove è andata a sfilare anche mio figlio. Ok, ma non era sfilato, eh? Sì, sì. Ok, quindi, no, sono cose belle, c'è purtroppo male una facendo un altro posto, una non si chiama, viene vista da qualche uno dei settori più alti, uno magari viene presa, diciamo, a fare anche dei turbini di cinema, ecco, l'hai visto quella di Sassari, Elisabetta Calanti, è diventata una diva già, ed è Sassari. Vabbè, ma quella lì, diciamo che è entrata come valletta, poi ha fatto successo per quello, eh. Poi Giorgio Berluni mi ha fatto conosce tutti gli attori possibili e immaginabili. Sono morti i genitori di mio padre. siamo solo i fratelli, però ne aveva 9, 8 di fratelli, quindi ce n'era da andare a trovare. Guarda. E sono andati anche a San Sebastian, in Spagna, in tanti posti, Pisa, sono stati a Coso dove si fanno i fanghi, a Chianciano, tutte quelle zone lì. Ascoltati loro. No, papà e mamma si andavano con gli anziani, sono stati con la Maffittana, sono stati in tutti quasi in tutti in Italia, molto belli, anche su tutti di montagna con gli anziani. Qui purtroppo quando è morta mamma, là non abbiamo fatto, non ci voleva andare, ed è stato a Cracovia lì, quelle zone, giusto anche per distrarsi, già l'abbiamo fatto, per e poi non ci più andato, ho capito, perché ormai gente di quelli che andavano ce ne rimasta a poca, hai capito, sì. Sì, anche la poco molto uno zio prima di dicembre che andava con la moglie, hai capito, la gente poi quando diventa vedova, hai capito, già alcune già fanno, però poi anche nelle passa la moglie. Sardegna già ci sono molti possibili da vedere, hai capito, io diciamo che c'ho la macchina, hai capito, ogni tanto si potrebbe fare le fate, però molte volte già esco liscio liscio, hai capito, perché qui io pago delle tasse, non delle cose, devo stare attento a come mi muovo, e quindi molte volte già non posso permettere, perché se esco giusto giusto non è che prendo tutti questi soldi, quindi hai capito, qualche volta mettiamo a sede non variabile e così ci accontentiamo e vediamo anche lì dei posti che sono favorosi già, capito, senza mettermi in viaggio da nessuna parte, se ho fatto una battuta così, pensa che papà e mamma già erano i genti, non pagavano le terme, nel treno e nell'auto, e sono usciti pochissime volte in vita loro. Io l'anno scorso ho fatto tutta la zona di Cagliari che non avevo mai visto, cioè sino a Cagliari non arrivato, ma Villa Simio, Serchia, tutte quelle zone lì, sono zone meravigliose, non le conoscevo più, ma sono belle, belle zone veramente. Già lo so già, che sono delle zone già. Purtroppo ripeto che bisogna, hai capito, anche farsi come si chiama all'estate, scegliere dei bellissimi itinerari che non sei mai stato, come stai dicendo tu che sei stato lì, no magari che vada un poco tipo Isola Rossa, ci sono stato per esempio quante volte, no, andiamo a Murianne e c'ero un po' dell'Isola Rossa io. Quest'anno sono andato sempre per servizio, perché ho svolto per il comune per portare i ragazzi e le famiglie lì a questo acqua fantasy, però diciamo c'è stato molte volte che da ragazzo andavamo a suonare lo scoglio rosso lì, hai capito, matrimoni, hai capito, e niente già. Per esempio, come stai dicendo tu, la costa anche mi piacerebbe vedere quella cosa di Arpatax, quelle zone, Orosei, hai capito, lì sono dei posti per esempio che non sono mai stati e mi piacerebbe vederli. Il gruppo di Orosei è stupendo, io ci sono stato, mancava solo la zona di del Cagliaritano, e però noi siamo stati, allora abbiamo preso l'albergo a Cagliari, siamo stati una settimana, ci siamo fatti proprio una piccola ferietta, abbiamo preso la barca a Cagliari e poi da lì ci muovevamo, capito? Lo so, hai capito, perché uno credo visitare posti anche, o c'ha una ruota o un camper, se deve andare diciamo che vuole che il posto è piacevole, deve a farmelo un paio di giorni, anche tre deve rimanere, chiudo per non fare, se no so sono lunghi, una persona bisogna anche di riposare, quindi bisogna andare e restarci almeno, come sto dicendo io, anche un 3 giorni in un posto, in modo che la persona arriva per esempio oggi, si ricolla un po', poi domani si diciamo che fa queste diciamo escursioni, domani poi anche parte, capito? Ed è una cosa tutta gradata, hai capito? Io scendo alla zona di Cagliari, ci metto 2 ore e mezza di macchina, secondo me andare anche 3, e dopo la sera io mi devo mettere in cammino a rientrare, non è lì. Vi saluto, vi stavo ascoltando, finito qua, già mezzanotte non qua, perciò domani mi alzo tardi. Ciao Gianni Capri, ciao Gianni Operrum, eventuali ascoltoni. Buonanotte a tutti, alle prossime occasioni. Ciao, riprendi già. Ciao, buonanotte. Avanti, capito. Ciao, buonanotte, buon tutto per domani. Hai capito già come quello che dice? No, quella costarino l'ho visitata, che sarà una delle mete, se mi avanza qualche soldo, perché già sono proprio, come ti posso dire, non navigo nell'oro già, non navigo nell'oro e quindi devo, hai capito, andare lì, almeno stare via e niente, oppure organizzare qualche gita con una e che però mi poi lo voglio portare la mia moglie appresso, hai capito, mia moglie adesso la devo portare, dobbiamo uscire ancora, adesso diciamo che sta facendo freddo, però ne eravamo già, siamo sposati già 28 anni, dall'86 sono sposato, eravamo legati, non per quella povera donna, per tante cose già, subito sono diventato pazzo, sono diventato, e poi c'era sempre come si chiama, fisso della mamma, e questa donna già stava entrando semplicemente in ospedale, ha avuto questi interventi al fegato, la pleure, che non mi sono anche, e l'unica che la curiva la mia moglie, molte volte andava a prestare un paio di giorni, da 2 diventava una settimana, poi 10, e fino a quei 15 giorni già è. E questo era ogni tanto che è capitato, e poi senza contare le paure già, te l'ho detto, quando tu sei attaccato a una persona, che soprattutto quando è la mamma, ogni campanello qui, ogni telefono era secondo lei una notizia, finché poi agosto quello scorso è arrivata l'ultima notizia drammatica e purtroppo già nel cielo ci sia, è finita anche la nostra pena, perché mia moglie è più tranquilla adesso, capito, non c'ha, sì, c'ha i suoi parenti, c'ha le frasi, però quella lì era la mamma, hai capito, a me mamma è morta nel 2010 e sono sempre molte notti che penso mi viene, come facevi tu, anche da piangere. Lo so perché l'ho provato anch'io, ma io mi pensavo in una specie di depressione. Vabbè, io con mia madre avevo un bel rapporto anche di amicizia, di confidenza, dialogavo molto. Con mio padre meno, ma con mia madre parlavo molto. Sì, anche io volevo più la mamma, che erano diciamo, i nonni materni, perché i nonni di peso, il padre di mio padre è morto, che era giovane, era da un anno, la corso, ma come fu, mio padre, la madre non la vedeva, perché proprio già da piccolino era già in collegio lui, io la guarda perché il nonno era ferroviere, e lui era al collegio dei ferrovieri a Porto San Giorgio già, vita è diventata un'altra persona, no? Non c'ho più il dialogo che avevo prima quando si chiamava, perché anche lui già questa cosa l'ha presa male, l'ha presa e quindi è chiuso in se stesso. Anche io già, lì come stava avvenendo un esaurimento, una depressione, anche io quest'estate ero così già, perché l'ho preso, prima non ne sono uscito da sola, da tante cose, menti, depressioni, contro il CQC, è morta la sorte, la nuova forma, cioè la stessa, capito? Non ci sta, è come la dischi scoppia, è così, e tutte le cose sono uscendo della nostra storia, siamo tranquilli un po'. Vabbè, prima, dopo la prima persa c'è anche Sereno, quello già è vero, vero. E già comunque adesso bisogna che te la godi un po', perché sacrifici deve fare, adesso è ora che ti prendi un po' di spazio che per voi, dai. Io capisco che sono quanto, ma sì, anche io ho avuto a casa mio padre, quindi lo so, so. E ma qui si altro più e la Sassari, noi dovremmo andare a 100 km e molte volte questa donna l'ha ricoverata anche a loro, già e lui stava in una sedia, mia moglie a guidare a lì, hai capito? E l'ho fatta 6 volte a fegato già, come un maiale, no? Con quelle sonde, no? E che si fumavano queste cisti già di chino cocco, lì è dovuto aprire, e anche al polmone, un sacco di cose che io sto dicendo, che è molto che durata tutti questi anni, hai capito? Poi con una banale cosa è morta, se c'era stata mia moglie magari, era un periodo anche che mi dicevano, in piedi chissà di cosa, e noi sapevamo che era ricoverata, però mia moglie sarebbe stata lì magari, con qualche più di attenzione, perché una volta si è accorta che stavo andando male, sto parlando nel 2002, beh, me l'ha portata a Sassari già all'ospedale Pesaro, c'era un corno, lì l'avevo messa a posto e l'ho trattata, hai capito, e poi ci siamo stati dati, hai capito, c'erano queste cose, diciamo, che la gente non può capire, capito, il errore. Non è che io sono persona che avevo nervoso per tutte queste cose già, anche per i mesi, se queste cose che devi fare la revisione non te lo passa, lo porti là, devi fare tutti come si chiama, all'interno te lo passa, cioè non si dice da un signor Lune, si è un signor Lune, si è un signor Lune, si è un signor Lune, io ti lascio da che è tardi, ma posso stare, ti auguro buonanotte e ci sentiamo domani, dai.